io ho detto appunto che Prato secondo me era la città di nessuno, perché ci sono tante persone che vengono da nazionalità diverse, oppure anche dall'Italia, però da varie parti, da varie regioni diverse, e secondo me Prato è, per tutte queste persone, rappresenta una città di passaggio, perché nessuno si sente veramente appartenente a questa città, ma tutti pensano di stare a Prato per un breve tempo e poi andarsene, per cui da questo deriva il fatto che purtroppo molti pensano che, non essendo la loro città, non hanno rispetto della loro città e quindi comunque si possono permettere di fare quello che vogliono, perché appunto staranno qui solo per un breve periodo e poi comunque sognano di andare da qua, da, in altri posti, e quindi purtroppo non c'è una vera identità di, anche di coloro che nascono a Prato, non si sentono proprio figli di questa città e non vedono niente di positivo, e quindi evidenziano solo cose negative. E comunque, parlando anche con i ragazzi, insomma fra di noi, comunque è sempre molto evidente il fatto che nessuno sta veramente bene a Prato, perché ci sono tutte queste diversità, tutte queste problematiche, appunto perché non si riesce a avere delle relazioni collettive, perché comunque ognuno cerca di stare fra coloro che sono più simili a lui, e quindi comunque non si cerca di essere aperti verso tante cose. Da un'osservazione mi sono accorto che a Prato le persone non sono veramente unite, ci sono molti cerchi, ma cerchi separati, cerchi chiusi. Il gruppo cinese non si mette mai ad andare in contatto, oppure meno frequentemente con gli altri gruppi. Una parte per la lingua, un'altra parte proprio per la cultura, per questa diversità della cultura, che non si mettono in contatto con le altre persone o con gli altri gruppi, le altre razze o etnie. Un altro argomento fondamentale per questa città è appunto la prospettiva verso un futuro, che a noi ragazzi è visto come incerto, pieno di dubbio e problematiche. Problematiche che ci derivano da dalle vere e proprie preoccupazioni dei grandi, che si ritrovano in primis loro a vivere una situazione che è pressoché senza speranza, e a noi ragazzi viene appunto lanciato il messaggio di andare fuori all'estero a cercare una propria rivendicazione di stare bene, di vita, e che comunque è vista come la soluzione a tutti i problemi che ci sono. Quindi invece di lavorare insieme per costruire qualcosa qui a casa, ci dicono di armarci e andare via e lavorare fuori. Ecco, i ragazzi che ci parlavano sono stati coinvolti in questo spettacolo dalla regista Cristina Pezzoli, che ci racconta un po' di più del perché Compost, l'associazione culturale di Prato, insieme ad altre associazioni della città, ha dato vita a questo spettacolo. Cooking è un progetto che è durato un anno, finanziato dal Comune di Prato insieme al progetto Portale Integrazione Ministero delle Politiche Sociali del Lavoro. È stato un anno di formazione artistica su 8 discipline: recitazione, canto, musica, giornalismo, web, costume, scenografia e scrittura. E 50 ragazzi di tutte le nazionalità che vivono a Prato hanno partecipato gratuitamente a questo progetto, hanno fatto un anno di formazione, poi sono usciti alcuni manufatti, tra cui un reportage web, uno spettacolo, dei costumi, delle musiche, dei canti. Quello di cui parliamo in particolare oggi è lo spettacolo Cooking, che è stato riscritto da Letizia Russo su un testo, partendo da un testo di Wesker che si chiama La cucina. Wesker è un famoso drammaturgo inglese che nei primi anni 60, sulla prima grande ondata migratoria a Londra, scrisse questa metafora, diciamo. Erano lavoranti di tutte le etnie che stavano in una cucina e anziché cucinare litigavano. Letizia ha riscritto per Prato, partendo dalle improvvisazioni che i ragazzi, gli adolescenti dai 13 ai 21 anni percepiscono come i principali conflitti qui a Prato, quindi hanno improvvisato, lei ha riscritto, ne è venuta fuori una commedia sui conflitti di convivenza tra tutti, tra cinesi, marocchini, albanesi, rumeni e quant'altro, e i ragazzi l'hanno recitata brillantemente. Fra i ragazzi c'è anche un talento che è andato a studiare a New York recitazione, si chiama Lorenzo De Mora, 19 anni, e ci parla appunto da New York via Skype. Nello spettacolo rappresentava il razzista. È stato un progetto bellissimo perché è uno dei pochi progetti che secondo me ritrae la realtà pratese senza metterci nessun falso buonismo o un romanticismo rispetto alle relazioni fra appunto le diverse nazionalità. Questo progetto è riuscito a ritrarre le vere problematiche e i veri conflitti. Ci fermiamo brevemente per tornare subito dopo a Prato a parlare di cucina, ricette e integrazione. You gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. Bentornati da Valentina Furlanetto a questa seconda parte di Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che ha come ospiti degli italiani di origine straniera. Questa sera abbiamo come ospite addirittura una città, gli ragazzi di una città, la città di Prato, una città laboratorio dove la presenza cinese è molto forte, ma anche la presenza di altre etnie. E l'incontro, scontro fra queste etnie è stato lo spunto che è stato preso per creare uno spettacolo per raccontare questa città che cambia, una divertente commedia sui conflitti di convivenza di Prato, interpretata da ragazzi che hanno partecipato da novembre 2012 a settembre 2013 al progetto Portale. Nella cucina di un grande ristorante, questa la trama dello spettacolo, cuochi, camerieri, lavoranti di tutte le nazionalità passano il tempo a litigare, ad accusarsi, italiani contro stranieri, stranieri contro italiani e stranieri contro stranieri. Ognuno propone la sua ricetta, ma bisogna trovare una ricetta comune per cercare di capire quale può essere la soluzione per questa città dove molto spesso gli scontri fra persone di identità diversa sono molto forti. Ma sentiamo proprio dalla voce dei ragazzi qualcosa di più sullo spettacolo. Sono di origine marocchina e la mia parte è fare marocchino proprio in cucina e avere conflitti con Michael, cinesi. Perché praticamente qui a Prato i marocchini e i cinesi non vanno d'accordo per niente. Perciò c'è questo conflitto tra me e lui che continua, continua, continua. Il conflitto nasce da un battibecco fra Vin e Joker, e in cui mi mette nel mezzo pure Michael, mi mette nel mezzo, io rispondo e lui mi dice perché noi marocchini perché andiamo a rubare ai cinesi, e io gli rispondo dicendogli perché siete gli unici con i soldi in questa città, soldi che non vi appartengono, e perciò lui continua finché ci odiamo. Io ho una parte di un cinese che cinese tipico cinese che non ha nemmeno una buona conoscenza della lingua italiana, quindi il suo modo stile di parlare è un po' particolare e quasi incomprensibile. Io sono un po' contro tutti, forse verso alcune persone di più, alcune altre persone meno, ma soprattutto marocchini che hanno veramente, diciamo, avuto conflitti con noi diretti, e invece con le altre persone che più o meno, ad esempio come con Chihuahua, che è un italiano napoletano nella scena, che ha dei pensieri razzisti, quindi io sono un po' contro di lui. Io sono Chihuahua, sono italiano, nello spettacolo parlo napoletano, e la mia parte è quella del lavapiatti razzista. Sono contrario a tutte queste persone straniere perché rubano il lavoro e tutto. Insieme a Joker, un altro ragazzo, diciamo, ci siamo alleati per andare contro di queste persone. E poi sono contrario agli scioperi e tutto che mi propone CGIL perché il lavoro me lo voglio tenere, perché ora come ora Prato è un momento di crisi, ma non solo a Prato, in tutta Italia, no? E quindi bisogna tenerselo stretto il lavoro. Io nello spettacolo inizia proprio con la scena che io propongo a lui uno sciopero, perché secondo me appunto tutti insieme possiamo fare qualcosa per stare meglio in questa cucina o addirittura magari trovare un lavoro migliore, e lui per tutto lo spettacolo continua a dire che invece secondo lui non è il modo giusto di cambiare le cose, quindi abbiamo questo conflitto che dura per tutto lo spettacolo. Ah beh, io sono Biancaneve, vengo dal Congo, però già naturalizzato italiano. La mia posizione nella cucina era quella di calmare, diciamo, le acque tra marocchini e albanesi, chihuahua e cinesi, CGL e company. Accuso Michael, che arriva sempre in ritardo, che si chiama Frutta Fritta, che c'è la sua... alla sua amata che la difende sempre quando parlo io, quindi non so che fare più, quindi vado dal capo e rivolgo tutto. Io sono Luna, ho 16 anni e nello spettacolo faccio la parte di una ragazza italiana, di origini italiane, che è innamorata di Frutta Fritta, sicché gli prende anche lezioni di cinese in segreto per riuscire a conquistarlo, però purtroppo sbaglia sempre la pronuncia, lo offende molto invece di dirgli magari sei bellissimo. Il mio sogno è quello di sposarlo, di avere una famiglia con lui, di andare in Cina dove magari avremo un futuro migliore invece che stare qui a fare dei cuochi in una misera cucina. Ognuno alla fine cerca i soldi, penso, e quindi sapendo che i cinesi, come si dice nella recita, sono gli unici coi soldi in questa città, è ovvio che comunque una ragazza italiana che fa la cuoca, almeno sempre riguardo alla recita, che non ha molti soldi, cerchi il ragazzo anche straniero che comunque ha i soldi e che ha potere in questa città. Io sono Andrea, vengo dalla Romania, ho 14 anni. Nel personaggio litigo con Chihuahua perché lui è razzista. Sono lo spione che dice sempre tutto allo chef. Mi chiamo Vin, ho 24 anni, sono albanese e lavoro in questa cucina di merda insieme agli italiani. E il mio scopo principale è litigare contro l'italiano Joker, che sarebbe Lorenzo, perché lui è fascista e razzista. E gli dà fastidio perché io esco con sua cugina. Sarebbe molto meglio se fosse in mano a noi, perché se è in mano a loro è pieno di immondizia e di razzismo. Sono Sofia, vengo dal Marocco. Ho cominciato a fare la costumista. Si sono fatti i vestiti per i ragazzi dello spettacolo. E poi ho fatto parte dello spettacolo della cattiva che litigava con il cinese, perché appunto a Prato i cinesi e i marocchini sono in conflitto. I cinesi dichiarano che i marocchini sono gli unici che rubano loro, no? Hanno un pregiudizio che tutti gli altri marocchini rubino, no? Nel primo spettacolo abbiamo cucinato realmente e ci siamo divisi i piatti per brigate. I primi hanno fatto le lasagne, i secondi, che eravamo noi, abbiamo fatto la carne e un po' di scaloppine e ratatouille. Poi come dolce abbiamo fatto un dolce proprio pratese, abbiamo fatto i cantuccini. e poi li abbiamo distribuiti a tutti. Poi alla fine abbiamo fatto i couscous in una maniera simbolica, siccome il couscous è un po' un miscuglio di roba e la cucina è un miscuglio di roba, abbiamo preso come spunto quello. Siete chiaro insieme gli ingredienti che ci servono per cucinare. Potremo creare nuovi piatti che nessuno riesce a immaginare. Couscous di portata in bottiglia, frutta e verde, zuppa pentigiata. Pesce di campagna, protettore, postmoderno, pizza e martellata. Un bouquet di odori, una pappella di colori che ti stupirà. Questa è la ricetta per fondare una nuova città. È una canzone che si intitola La ricetta del futuro e in cui i ragazzi hanno espresso, diciamo, la loro volontà in qualche modo di trovare delle nuove ricette per questa città. E questo mi sembra una cosa che noi come adulti dobbiamo proprio raccogliere, no? È una canzone anche molto ironica, perché finisce appunto con una ricetta surreale in cui si mettono dentro i piedi di Ballotelli, i sudori mescolati, la lingua che non ha bisogno di dizionari, le chiavi per aprire tante porte, l'allargare le piazze, insomma è molto il naso per sapere con chi prendersela, cioè diciamo è stato costruito un piano simbolico sulla base però di quello che nasceva da loro durante le improvvisazioni, per cui mi pare che come adulti abbiamo proprio un compito di cominciare a costruire futuro e Prato è secondo me veramente la città che può diventare un laboratorio di futuro per l'Italia, cioè una persona su sette a Prato è un migrante ed è la città più multietnica d'Europa, quindi se si sa cogliere questa possibilità di inventarsi qualcosa di nuovo con un po' più di creatività, forse vale la pena. E dopo Cooking Compost, l'associazione culturale di Prato ha ideato un altro progetto, Facewall, una collezione di 100 foto ritratto scattate da Ilaria Costanzo che sono diventate delle bandiere che sono state appese alle balconate della città. Le foto scattate mostrano come al di là delle immagini raccontate dai media sui cinesi di Prato ci siano altre relazioni, non solo professionali ma anche private, di amicizia, di famiglia, di amore fra gli italiani e gli stranieri a Prato. Prima di salutarvi, io invece vi invito ad andare a vedere lo spettacolo che si terrà dall'8 di febbraio a Prato, il primo spettacolo in Italia con protagonista un attore di origine cinese ed è proprio uno dei protagonisti di questa associazione Compost, Yang Shi, un giovane attore che proviene dal nord della Cina, arrivato a 11 anni in Italia insieme alla madre. Yang Shi è stato lavapiatti, venditore ambulante, poi ha studiato alla Bocconi, è stato traduttore simultaneo e adesso è un attore. Racconta proprio di questo viaggio alla ricerca delle sue origini, del rapporto con la sua madrepatria, ma anche di quello che accade in Italia, della sua arrivo in Italia, delle contraddizioni, le possibilità della condizione di un uomo orientale occidentale, dal 2006 tra l'altro cittadino italiano. Un ponte che traduce, che recita e che ascolta, guarda e digerisce. È la prima volta nella storia che viene sollecitato dai cinesi, con i cinesi e non solo, no? Tutti gli stranieri a creare per me una piccola New York, cioè a comunque uscire fuori, a mettere la propria faccia fuori e dire con quella cosa lì io espongo una mia idea di un futuro diverso in questa città in cui ci sono anch'io. Quello linguistico senz'altro è un problema, io ho la fortuna di aver ritrovato il mio sogno in Italia attraverso la traduzione simultanea ed eccetera, all'inizio già da quando avevo 14 anni traducevo, però la cosa più importante che l'Italia è l'arte e la sua cultura millenaria e quello, su quello si può scommettere per combattere una reciproca chiusura, perché io sono arrivato qui seguendo Cristina Pezzoli e Letizia Russo e un gruppo di artisti, quando con Gerardo Colombo si parlava delle regole, lui che ha smesso di fare il registrato, a me all'inizio non mi fregava niente di sta roba qua. Invece piano piano ho scoperto che chi predicava il fatto che i cinesi non rispettano le regole spesso sono quelli più chiusi, che comunque non rispettano le regole. Quindi è la competenza anche di un altro modo di vedersi come italiani, io mi ci metto in mezzo perché sono italiano, e poi anche la competenza culturale su chi è l'altro. Io che sono in mezzo dico chi sono i cinesi veramente, chi sono gli italiani veramente. Tu prima parlavi di chiusura, no? Non c'è chiusura senza aperture. apertura e non c'è apertura senza chiusura per la cultura taoista. Qui ho imparato che le tre chiavi per aprire la cultura cinese sono il taoismo, il confucianesimo e il buddismo, e in una di queste tre sicuramente la responsabilità dell'altra parte, degli italiani. La trasmissione di oggi si conclude qui. Mi trovate anche su Twitter @valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, in Italia come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory.